Blu Radio Sera. 21 e 12 minuti, un altro appuntamento con Blu Radio Sera su Blu Radio Veneto all'interno della nostra programmazione ogni sera. Dalle 21 alle 22:30, Maurizio, io come sempre arrivo all'ultimo minuto e non so, parlami dei tuoi ospiti. Anche se sei arrivato all'ultimo minuto, il feeling c'è sempre. Stasera abbiamo il San, sono molto contento di avere il San. Ho fatto un po' di colloquio telefonico con Francesco, sono riuscito finalmente ad accaparrarmi Francesco e la sua band, una band importante. Sono molto felice di averli stasera. Buonasera San, avete buonasera fatto un buon dialogo. Buonasera a tutti. Forse è il primo esempio in cui la band arriva prima sia del regista. Hai ragione. Questa volta purtroppo il malcapitato DJ o conduttore aveva dimenticato la macchina fotografica e punto fuori, ma c'è stati veramente dei gran puntualoni. Voi siete stati perfetti. Puntuali e... stavolta il non perfetto sono stato io. Vabbè, in ogni caso io sono molto contento di avervi. È la prima volta che vi ospito veramente qua dentro. Sì. Ci siamo sentiti telefonicamente, abbiamo avuto dei contatti, però la band vera e propria stasera al completo è qua. Esatto. E questa è per noi un grande vantaggio, una grande novità. Una grande giornata musicale. Grazie. Per noi è un piacere sempre. Esatto. Benissimo. Avete una bella carriera sotto, avete fatto un sacco di cose interessanti. Adesso me le spiegate, non chiaramente tutte, perché perderemo tutta la trasmissione. Ma come è nato il progetto vostro? Qual è un altro nome? Guarda, Balla Francesco. Vi presentate? Sì, allora innanzitutto ci presentiamo. Io sono Francesco, The President, voce e chitarra. Io sono Gianluca Menegozzo, detto anche Boston. Perfetto. E sono chitarra della band. Ciao, Matteo Reghelin, mi chiamano tutti quanti Lemma. Comunque, quindi mi trovo dentro. E io suono il basso oggi e anche qualcos'altro. Non dico niente, così sono una sorpresa. Ciao a tutti, io sono Ricky, detto Trash, suono la batteria. E oggi non suonerò nulla perché farei troppa confusione. Non c'era posto. Ok. La nostra avventura musicale è iniziata nel 1997, e quando appunto io e Ricky e il vecchio bassista abbiamo appunto iniziato questa avventura da poco più che 14 anni, insomma, dei ragazzini. Quindi giovanissimi. Giovanissimi. E quello che ci univa era questa passione per la musica rock californiana e la voglia di divertirci. Generalmente a quell'età o si gioca a calcio o fai il musicista. Noi facciamo il musicista. È vero, un'ottima scelta. Ragazzi, infatti è stata un'ottima scelta. Ha ripagato. Una volta c'erano i garage dove si riuniva a fare. Esatto. Infatti anche in questo caso c'era il garage, esatto. E quindi tutto è iniziato così, un po' per gioco, per divertimento, anche se in realtà già dopo i primi 6-7 mesi avevamo sentito nel nostro cuore quanto la musica fosse speciale e quanto potesse darci come persone e quanto allo stesso tempo poteva aiutarci a crescere sotto ogni punto di vista, insomma. Certo. E quindi da lì abbiamo iniziato a credere in modo più concreto in quello che facevamo, a impegnarci di più. E allora, quando appunto ti trovi a 15-16 anni con un ideale, con un sogno così visto quasi come un sogno utopico dalla parte della maggior parte della gente, sì. Insomma, e i nostri piccoli, la maggior panza era bella, la maggior parte e la maggioranza, esatto, un nuovo coniato, nuovo la maggior panza si è capito. No, ma era una cosa carina, ma certo. E niente, allora appunto ricordiamo bene come i primi sacrifici, non so, lo scegliere di non andare fuori la sera piuttosto che al bar, piuttosto che a farsi il giro con gli amici o in discoteca la domenica pomeriggio, perché quello è quello che si fa a quell'età. Sì, una volta stavo in discoteca domenica pomeriggio, noi invece rimanevamo in sala prove. Sempre. Era la vostra discoteca? Era la nostra discoteca. E appunto succedeva che venivamo anche un po' presi in giro per questa nostra scelta, dicevano, ma cosa state lì a perdere tutto questo tempo, che alla fine poi anche voi dovrete seguire la strada che seguono tutti. E invece piano piano abbiamo autoprodotto un primo demo nel 1999, dopodiché nel 2000 una piccola etichetta indipendente di Treviso che si chiamava Agitato Records ci chiese di incidere appunto il primo disco ufficiale. E avevamo tra i 17 e i 18 anni e per noi era chiaramente un grande onore, un bellissimo trampolino di lancio, ma mai avremmo pensato che poi le cose avrebbero preso insomma questa piega. Tu hai parlato di musica californiana, io posso parlare di punk? Sì. Ecco, sì. Possiamo parlare di punk. E come? Questa, io ho sentito un momento, Sergio non ha sentito, ma io ho sentito un momento le prove, sì. non c'era proprio del punk, c'era musica acustica, era molto interessante, quasi folk a mio esatto, parere. Folk, quasi folk. Però voi partite dal punk, si può considerare. Sì, ma sì. Si può considerare la musica punk una musica folk? È vero. Lo dicevano anche i Ramones, per cui che hanno il padre. Vedi caso è la maglietta dei Ramones. La differenza è che noi cantiamo in maniera più educata, mentre ad esempio i Ramones e i Renzi cantavano tipo così, capito? Però comunque anche con le chitarre acustiche noi manteniamo, diciamo, sono più bravi ragazzi. Loro fanno la stessa cosa, ma sono più bravi. Loro devono fare così, perché esatto. È iniziato così. Tu nella tua biografia hai scritto gioia, amore e gratitudine, il tuo motto. Sì. Come mai questo? Come mai? Perché la vita è meravigliosa e poi negli anni personalmente mi ha dato un sacco di luci. Molte più luci che ombre, quindi gioia, amore e gratitudine sono un ottimo metodo per non aver bisogno di alcun tipo di medicina. È vero. Perché innanzitutto penso, diciamo che dovrei mettere al contrario, gratitudine prima di tutto, perché questa vita che ci è stata data non ce la siamo guadagnati da soli, ci è arrivata, e quindi già questo è un motivo per essere grati. Sono d'accordo con te, benissimo. Riccardo Trash Rossi, tu hai detto che canti solamente sotto la doccia. Per fortuna sì, canto per fortuna. Ma no, ma è un bravo cantante. Come per fortuna. Non mi sono mai esercitato, non ho mai provato a cantare con il mio gruppo, perché comunque ho tre voci fantastiche. Esattamente. La mia sarebbe adesso più. Arriviamo anche agli altri. Dunque, poi vediamo di te. Chitarrista e corista dei Santa. Sono io, sono. Sei membro della band dal settembre del 2003. Sono il più vecchio, è più vecchio. Piccolo dentro la band, nel senso che sono quello che è arrivato dopo di tutti. Però sei più vecchio. Però sono più vecchio. Infatti, quando lui diceva prima discorso andare in discoteca sabato pomeriggio, domenica pomeriggio, tu eri da. Per fortuna era un po' più avanti, perché l'avevo già fatto e dunque mi sono salvato. Esattamente. Anche se dopo Francesco, chiaramente, tutti i ragazzi, ma anche Francesco mi ha insegnato proprio la cosa più bella, è la cosa della gratitudine. L'inserimento come ultimo della band, cosa ti ha portato praticamente? Sono cose che posso dire in diretta, nel senso che loro sono stato provato da questa cosa qua, nel senso che io ho suonato prima un altro gruppo, poi ho suonato anche con altre band, eccetera, loro mi hanno proprio forgiato. Sono proprio degli stronzi. Nel senso, proprio presente, tipo, stai lì, dai, suona. Allora, tipo, suonavo magari il riff, oppure imparavo le canzoni, i power chord, così gli accordi. No, guarda che sei un po' in anticipo, no, guarda che sei un po' in ritardo. Trattavano malissimo. Sì, ricordo le ore passate. Un'estate al caldo a suonare dentro la stanzetta a casa di Riccardo, che era eccezionale quella stanza là, che erano tipo 40 gradi a luglio, agosto, così, un caldo incredibile. E questi qua, capito, che mi dicevano, guarda che c'è così. Dovevi provare continuamente per entrare. Però non mi era mai successo una cosa del genere. Vita mia, di trovare quattro persone così determinate, e come diceva prima Francesco, è incredibile, determinatissimi proprio nel dicendo, guarda, o suoni bene o sono a casa tua. A quell'età in cui giustamente quando hai, nel senso, io ero più grandetta, però comunque avevo 24 anni, 23-24 anni, loro ne avevano 18, 19, 17, eccetera, molto più piccoli di me e magari anche, capito, meno. Ma scusa, 24? Eravamo tra 18 e 21. E 4, lui ne aveva 19. Scusate, ho sbagliato. Volevo aggiungere una cosa. Dimmi, Ricky. Gianluca ha fatto tre concerti e dopodiché siamo andati tour con gli Offspring in Europa, quindi voglio dire, dopo il terzo è stata ripagata questa. Questo lavoro esattamente fatto. Come, siamo dei perfezionisti. Ma dopo parliamo dei vostri concerti in giro per il mondo. Un momento parliamo del bassista, che è fondamentale. Il basso in una band, c'è poco da fare. Di solito è il trio fondamentale: basso, chitarra e batteria. Però siete in quattro, il basso è fondamentale. E nel punk è molto più fondamentale degli altri strumenti, secondo me. Cosa dici? Ma accompagna. Sono dei generi dove molto più si sente, diciamo, la linea marcata delle melodie. Invece, qua diciamo che noi abbiamo sempre puntato sulla nostra musica come a un muro di suono. Quindi. diciamo che a noi, diciamo, sì, il basso è molto quadrato e comunque si allinea alle chitarre. Esatto, il basso sulla cassa. Ho capito. Per dare proprio un muro di suono, un bel sound, un bel groove. Bello. A me lui, ad esempio, in un video vecchio aveva suonato anche il contrabbasso, che Matteo adora il contrabbasso, ed era veramente una bella cosa da vedere suonare. Bene. Adesso, come è nostra tradizione, vero Sergio, apriamo la finestra e ci diamo un pezzo da disco per adesso. Yeah. Andiamo a sentire la prima traccia, che è 1972. O in inglese? No, 1972. In italiano, in italiano. Blu Radio Sera. Radio Sera. Questa sera con noi i Sun, Maurizio. Sì, adesso parliamo di questo pezzo, che è un pezzo molto importante per voi. Innanzitutto ha una tendenza assolutamente punk, nonostante certo, tutto. È come. Cosa dici? È come. Cosa dite? La ritmica è assolutamente punk. È la ritmica assolutamente quello... punk. Però c'è la melodia dentro. Esatto. È quello che fa il punk pseudomelodico. Esatto. Qualcuno, sì, voi avete fatto avete aperto i concerti di Offspring. Gli Offspring sono melodici fondamentalmente. È come. Assolutamente melodici. Per quello hai fatto un milione di copie in America, esatto. Anche per quello. Però... tendenzialmente sono melodici, però inizialmente non erano per niente melodici, sì, infatti, assolutamente spaccavano, poi chiaramente le cose cambiano. A me interessa sapere come avete avuto l'idea di fare questo pezzo, come è nato. 1972. Esattamente. Beh, innanzitutto perché 1972? E perché 1972? Perché bisogna spiegarlo. Esattamente. È l'anno di matrimonio, insomma, dei miei genitori. Perfetto. E praticamente nel 1972... mia madre scappò di casa perché non le veniva lasciato, insomma, seguire questa sua passione con mio padre. E certo. Quindi in quell'estate, agosto del 72, raggiunse mio padre in un campeggio e da lì, nel giro di qualche settimana, si sposarono lontano da casa, dando appunto vita a un sogno, a una famiglia. E appunto mi sembrava un ottimo motivo per scrivere un pezzo. E quando ho scritto questa canzone non pensavo assolutamente che sarebbe stata il singolo di apertura del nostro primo disco ufficiale con la Sony Music. Ricordiamo che incidono per la Sony, Sergio, mica niente. E questa è una, secondo me, è una bella caratteristica di questa canzone, perché veramente io l'ho scritta per fare loro un regalo. E tanto che 3 anni fa, quando avevamo registrato questo pezzo, glielo avevo regalato come regalo per l'anniversario di matrimonio. E poi invece le cose hanno fatto sì che diventasse quello che è diventato poi per noi, che ci ha regalato tantissimo questa canzone. E quindi doppiamente quella storia ha fatto in modo che io sia qui oggi, e allo stesso tempo ci ha permesso di firmare un bel contratto. E poi anche di farci conoscere da tantissime persone. Quindi alla fine... che c'è un video bellissimo di questa canzone, potete vederlo su YouTube o sul nostro sito, che è www.thesun.it. Voi, tu, Lorenzo, Francesco, hai ricordato che siamo un misto di contrasti ed armonie. L'armonia l'abbiamo già detto, sì. il contrasto perché musicalmente dovete collimare le quattro diverse teste, oppure no, è così? Beh, ma l'hai già detto tu prima, la nostra musica è punk, fondamentalmente, esatto. È punk, è contrastata, è rock and roll, è rock and roll infatti, chiaramente. Però sopra c'è una grande melodia. Esattamente. E penso che rimarrà così per sempre, perché la musica energica non deve disdegnare l'armonia e la melodia, e queste due cose possono andare tranquillamente di pari passo. Però c'è questo contrasto, una bella armonia, una bella melodia ha bisogno sotto di un'energia, certo, di un feeling, esatto. Chiaramente, sì. E quindi sicuramente questo, diciamo, è il motivo musicale di questi contrasti in armonia. E questo entrare nella Sony, però giustamente ho letto, siamo rimasti indipendenti lo stesso, anche se siamo entrati nella Sony. E questo è fondamentale. Esatto, fondamentale. Non è mica semplice entrare in una multinazionale come la Sony ed essere ancora indipendenti. Sai che le etichette tendono a levare l'indipendenza. Sì, anche chi si diffonde, come, cioè, diciamo, a livello proprio nazional popolare, quando esatto. Parli tra musicisti o parli con amici, eccetera, la prima roba che ti dicono è ma allora vi dicono cosa fare, esatto. È vero o non è vero questo? Sono tutte cose che almeno con noi non sono successe, siamo stati trattati veramente molto bene dalla Sony. Abbiamo dato loro un disco che era già pronto, abbiamo fatto addirittura le foto, le grafiche del disco, cioè, nel senso, loro hanno detto ci piace, dunque abbiamo fiducia in voi, siete delle persone che meritano per quello che avete fatto, per il percorso, certo. Per le idee che avete, per il fatto che siete persone pulite, che siete persone solari, avete fatto tutto da solo finora, perché non continuare così, nel senso, se avete un bel disco, le canzoni sono belle, la grafica del disco ci piace, le foto sono valide. Questo va detto. Questo va detto, diciamo, con grande apertura di perché cuore, di onestà intellettuale. Si sente sempre appunto la storia, il contrario. Invece noi dobbiamo dire che abbiamo trovato persone che hanno veramente capito e apprezzato la nostra direzione artistica e veramente non hanno cambiato una virgola. Nulla. E questo è fondamentale. Cioè, ma neanche una parola, niente. Cioè il progetto questo è andato avanti così. Esatto. Okay. noi gli diamo la possibilità di incidere e ok, perfetto, andiamo avanti. Poi chiaramente poi è chiaro che se collabori, certo, con, certo, le persone che sono, che hanno una storia, una cultura, delle conoscenze notevoli, chiaro, non è che vado a dire io, voglio dire, non so, sì, Morse, come suonare la chitarra, esattamente, chitarrista di palco, le stesse cose, cioè, lì ci sono delle persone che sono veramente, che sanno il fatto loro, e dunque magari chiaramente ci sono ci possono essere dei consigli. Nel nostro caso invece, per questo primo disco che abbiamo fatto, tutto è andato, era già andato, pronto, e l'hanno, okay, preso come l'avete costruito. Esatto. Bene. Visto che l'hanno preso come avete costruito, anche noi adesso lo sentiamo praticamente dal vivo, che è la cosa più bella di questo programma. Con cosa iniziamo? Con che pezzo avete deciso di cominciare? Allora, vogliamo iniziare con un pezzo del nostro primo album. Cosa? Okay. Benissimo. Perché appunto non è successo niente, sono cose che capitano in uno spettacolo assolutamente dal vivo, sono 21 e 31 e perché appunto a noi piace, viviamo bene il presente, era il telefono, ok, viviamo bene il presente, però bisogna sempre ricordarsi quali sono le nostre origini, certamente, e quindi proponiamo questo pezzo che si intitola Young Forever, giovane per sempre, e appunto lo abbiamo rivisitato un po' in chiave folk con l'Emma che suona la fisarmonica. No, io hai detto sì, e niente, fa più o meno così, ok. Keep your begins on my head. You're one of the last men lost the world war. You're living to teach us how to be young forever. And there's a mountain rains on a valley. You're eating on this life where small things still make you happy. I can just try to understand how much more than me you know about you, Maria. We are together but not here forever. I'd like to think that we're gonna be only energy and we'll be together in another place forever. And then time to speak about human reality. Hey. Sixty-four years older than this young guy, that of sunshine, which is still living to look of your eyes. Worried about many of my friends have never met persons like you. They could be a lot different, and we are together but not here forever. I'd like to think that we're gonna be only energy and we'll be together in another place forever. And then we'll have time to speak about you, my reality. Together, but not here forever. I'd like to think that we're gonna be only energy and we'll be together in another place forever. And then we'll have a time to speak about human reality. Radio Sera. Blu Radio Sera. Ricordiamo allora i Sun in diretta su Blu Radio Veneto nel corso di Blu Radio Sera. Maurizio, ti vedo fare sì, no, sto attento. Dicendo una cosa a loro, cioè mi viene in mente questo, hanno fatto mi sono fermati un momento e hanno fatto un'interessante versione a cappella, una cosa molto bella, e che era californiana al 100% questo pezzo, anche se aveva il folk dietro l'angolo, ma era californiana, sì, ma californiana proprio. Gli aggettivi che usa Maurizio. Dimmi. Io la California è più forte di me. Io ho una certa età, la California fa parte del mio DNA. Sì, bro, mettiti vicino. No, faccio così io perché sennò non sento cosa. No, alzalo pure. Alzalo. Poi quando suoni lo abbassi. Ecco. No, volevo dire appunto che la musica da cui noi abbiamo tratto anche ispirazione, a parte il punk rock californiano, come dice Francesco, si chiamava appunto hardcore melodico. Ecco. Questa cosa ti dice, no? C'è l'hardcore, quello discoteca, quello svedese, quello dei paesi nordici, e poi c'è l'hardcore melodico, c'è una fila di gruppi che vanno delle Gwagon ai NoFX, non solo californiani, ma comunque una fila di band che appunto uniscono magari delle sonorità molto roccheggianti, gran batterie violente, veloci, potenti, chitarre elettriche molto notevoli, con però la melodia della voce, insomma una linea melodica di voce assolutamente niente violente, insomma. Certo, melodica. Questa dimensione era ottimale. California che si sposa con il punk, ma chiaramente la California è riveduta e corretta dai Sun, questa è una cosa molto positiva. Esatto. Citiamo l'SMS, così qualcuno vuole interagire con voi. Okay. 346 23 20 033. Salutiamo anche la nostra amica Rossella che ci sente sempre, una rocchettara anche lei. Ciao. Il nostro direttore artistico, che è Alberto Plisso, che ha organizzato praticamente di live. E aspetta, ripeti il numero di SMS: 346 23 20 033. 346 23 20 033. Quindi qualcuno vuole interagire, una macchinetta voi, libero, assolutamente disponibile. Una macchinetta. SMS al 346 23 20 033. Esatto, bisogna dirlo così, perché io quando sento queste cose da casa, tipo, sono al 3. Dico, come cazzo faccio? Lo ripetiamo ancora una volta: 346 23 20 033. Ok, fatto. Linea calda qui da Sun. Esatto. E comunque caldo, sì, perché il caldo c'è. Insomma. Caldo c'è sempre. Qua dentro si sta bene, fuori sono 38 gradi. Qua è sempre caldo. Sempre caldo. Estate, inverno, primavera e autunno. Bene. Perché all'inizio era freddo, ma poi ci si scalda. Il feeling c'è, cioè, quando si suona, si parla, si descrive, si allarga l'orizzonte musicale. Io voglio sentire allargare sempre più l'orizzonte musicale di Sun. Voi avete fatto 300 concerti in giro per il mondo. Avete aperto gli Cure. Chi sono i Cure per aprire? Voi avete aperto un concerto di Cure. Aspetta, sono 300 all'epoca. All'epoca, io parlo la cartolina. Siamo sopra 350. 350. che cosa sentite aprire un concerto dei Cure praticamente? Forse noi non ci rendiamo neanche conto di fare queste cose qua, anche perché oltre ai Cure abbiamo suonato veramente con un sacco di band. Sì, avete un sacco di da Deconstruction, io non c'ero ancora, allora ho suonato con i Muse fino alla, non so, prima ancora la tournée italiana degli Scappè, i Vandals, per dire che sono un'altra band storica, insomma, di Los Angeles, californiana. I Cure, diciamo, cioè, suoni con delle persone che hanno cambiato le vite magari di milioni di persone che si ispiravano, che ascoltavano, che li seguivano, per cui forse noi non siamo poi così legati ai Cure, magari io ho alcuni dischi, li conosco bene, ma sono più legato, se devo pensare al cuore, va dove ti porta il cuore, non mi porta dai Cure, anche se è una band che adoro e insomma ascolto da tanti anni. Forse a livello di feeling oppure o di situazione, all'epoca, cioè noi ci ricordiamo quel concerto lì perché è stato incredibile. Siamo andati a Napoli col furgone, abbiamo dormito in un ostello, la mattina ci siamo svegliati presto, abbiamo conosciuto gente. Matteo doveva ritornare sulla notte, ha finito il concerto, non ha neanche visto i Cure. Matteo, sei andato via, è un bel aneddoto. Io ho finito di suonare, ho preso il basso, l'ho lanciato dentro il furgone e sono salito in macchina di corsa in seconda corsia, tanto a Napoli. Si è fatto portare in stazione. portare in stazione diretta, sono perché aveva la terza prova degli esami di maturità. La terza prova d'esame, cioè, tremendo. Sono arrivato in classe, c'è qualche domanda, scusate, avete una penna per favore? Cioè, ma vi rendete conto cosa significa a quell'età lì suonare con i Cure il giorno dopo, farsi la notte in treno e andare a fare gli esami di maturità? Bello, cioè, è una cosa meravigliosa, secondo me è una cosa meravigliosa. Infatti ci ricordiamo più queste cose, bisogna dirlo anche a mia madre, insomma. Soprattutto al tempo, adesso sei un po' rassegnata, insomma, però vedi al tempo anche perché ancora non lo sapevo. sapeva che lui ha suonato con quella sera. Lui dichiara pubblicamente oggi, 23 agosto 2011, quella sera mamma di Lemma non ero con i ragazzi a fare festa. Mamma vado al bar per festa, ma ero a Napoli, sono andato con i chiusi. Mamma vado al bar. Era a Napoli, sono andato. Non mai saputo. È stata una cosa, cioè, non so, una cosa inimmaginabile per voi, secondo me. Esatto, hai detto la parola. Esattamente. Poi quel furgone. Storicamente la band si comincia sempre con il furgone. Io ricordo all'epoca, io sono un po' più vecchio. Si comincia con le macchine. Con le macchine. Anche ma dicevano le orme, sto qua tagli a pietra un po' di tempo fa. Dicevano le orme, quando sono andate all'isola di Wight, sapete che sono andate all'isola di Wight, avevano una Renault rossa e sono partiti con la Renault rossa. Sono andati all'isola di Wight 1969, quindi un po' di anni fa. E anche voi siete andati nella vostra isola di Wight. Siete andati a Napoli, su Nike Cuba. Fate tante noi, isola di Wight. Avete fatto tante isole di White, è cosa splendida, che serve il bagaglio, serve aumentare il bagaglio musicale di conoscenze al di là personale, anche esatto, personale, quello è fondamentale secondo me, soprattutto. Bene, quindi abbiamo parlato, abbiamo rotto il ghiaccio, spero almeno. Sicuramente abbiamo rotto. Siccome ci abbiamo messo anche poco, insomma. Sì, ma è bello che sia così, ci vuole sempre un pugno di intenti praticamente. Nonostante l'abisso di età tra di voi e Maurizio, sì, c'è un abisso legato totale, un grande abisso. Pensavo che tenessi l'abisso di età tra me e loro, perché ogni tanto ne parlano. Senti da dietro il vetro. Abbiamo qualche anno di differenza, un abisso. Tu non sei tanto vecchio, no, assolutamente. Sono un po' più vecchietto. Un po' più vecchietto degli altri, esattamente. Quello maturo. Non mi sono sentito dire quello maturo, cioè 35 anni, sono mica 70. Vabbè. No, io non ho 35 anni, uè. No, io per carità. Ho capito, 35 anni. No. Funziona qua. Allora, sono 21:42, Sergio, un altro pezzo dal disco, cosa dici? Traccia 5, non ho paura. Ok. L'hai scelta tu, eh. Sì, sì, ok. Andiamo. Ecco. In questa stanza che mi ha insegnato un sogno, che mi ha donato un senso, oggi ci sono solo immagini d'un tempo. Le storie del passato scandiscono l'inferno di un anno ormai ghiacciato, di un io che oggi non c'è. Perso e condiviso le chiavi del destino, le scelte fatte un tempo sono giunte a compimento, e il cielo che difende la svolta che c'è in me. Oh yeah, yeah, oh yeah. Oggi decido io, oggi sono cambiato, oggi è un giorno mio, vivo tutto. Da facce oggi cambiate, da sogni che sono. mio nuovo me. Blu Radio, Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio, Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Io non mi ero accorto, ma sono arrivati non so quanti messaggi. Bene. Per Issan, anche da Perugia, Milena. Oh, ciao Milena. Ciao Milena. Vi seguo in streaming, un saluto speciale ai Sun, sperando di rivederli presto in concerto. Un grazie enorme ai The Sun, con la loro musica e le loro parole mi hanno dato la forza di inseguire un sogno. Questa è Lina. Questa non si firma, grandissimi Sun, potete fare tranquillamente lo stadio. Chicca vi chiede di parlare del Giappone. Okay. Non so, vedete voi. Sai chi è? Non so. Poi Anna dal Friuli si ricorda della bellissima serata di venerdì a Castelceriolo. Sì, venerdì, yeah. Certo. Anna, sì. E poi Elisa di nuovo. Mamma mia, quanti, un altro ancora. Linda, vi sto scrivendo da Cecina o Cecina, non mi ricordo mai. E volevo chiedervi se sapete perché vi vedo molto a scatti. Vabbè, si riferisce alle nostre telecamere, perché non ve l'ho detto, ma vi ho messo in streaming. Ah, siamo anche pure in streaming. Sì, sì, sì, sì, sì. E poi Puffa vi saluta. Ciao. Un'emozione anche sentirvi per radio, vi voglio bene, in baci dalla Puffa. Per adesso penso che siano tutti. Sì, sì, sì, sì. Beh, direi bene. Mica pochi. Una bella quantità, dai, sì, assolutamente. Parliamo allora di questo pezzo che giustamente il nostro chitarrista qui vicino, il nostro corista, cosa posso cambiare? Chiamare chitarrista, possiamo chiamarti io, così? Dottore. Dottore. Vale. Sì, sì, come vuoi. Come dottore vuoi. Della band. Dottore della band. C'è un arrangiamento leggermente diverso rispetto al brano precedente. È un singolo, anche questo può essere un singolo potenziale, ma è un singolo più potente. Infatti questo me è stato il secondo singolo. La scelta di singoli è stata vostra, assolutamente vostra, avete scelto voi chi singoli assolutamente lanciare. Nostra. E questa è una cosa altamente positiva, la seconda. Però e la cosa, dimmi, bella è che ci siamo anche trovati in assoluto accordo con chi doveva scegliere. Quindi poi è difficile dire quindi se l'abbiamo scelto da soli, perché noi l'abbiamo proposto, dall'altra parte ci è stato detto anche noi pensiamo che sia questa, quindi nel senso, se loro avessero voluto per forza farci fare quel pezzo, noi non siamo mai stati contrari, quindi non potesse essere la situazione. Non c'è nessun problema. Esattamente. Essendoci un'unione di intenti, esatto, il problema non si pone. Come avete fatto a riuscire ad essere la migliore punk rock italiana nel mondo al May del 2004? Ora io mi tolgo, non lo so. Non lo sai. Gli altri lo sanno. Guarda, appunto, come ti dicevo prima nel racconto della nostra storia. Tra il 2000 e il 2004 si sono susseguite un sacco di cose, veramente una serie incredibile di esperienze, di viaggi, di concerti, di uscite discografiche. Dopo parliamo anche del Giappone. E niente, appunto, era una cosa abbastanza particolare che una band italiana riuscisse ad esportare la propria musica, e in particolare appunto era abbastanza evidente il fatto che noi da indipendenti, senza chissà che grandi agganci, riuscivamo comunque ad esibirci spesso e volentieri all'estero, ad avere anche i dischi pubblicati all'estero. Certo. E per questo sicuramente, diciamo, questo è uno dei motivi che ha portato poi gli organizzatori a darci quel premio del tutto inaspettato. Ma questa etichetta vi è rimasta quando è arrivato lui? Continua ad esservi questa etichetta, vi rimane sempre, oppure è una cosa episodica e poi è scomparsa perché musicalmente avete cambiato il discorso? Ma guarda, non ci pensiamo, viene spesso tirata fuori questa cosa del premio. Però veramente noi non lo diciamo mai. Ok, questa è una cosa giusta secondo me. Proprio la band deve andare avanti lo stesso al di là dei premi o delle manifestazioni, degli agganci. Esatto. Una è una strada da percorrere e deve portare avanti. Questo è fondamentale. Ti dico, certe volte ti dimentichi che gli episodi sono talmente tanti. Adesso non il discorso del premio, però ti giuro, quando noi guardiamo le foto, io lo dico sempre perché è un bel modo per capire quante ne abbiamo fatte, io guardo le foto e ci sono dei momenti in cui dico: ma qua dove eravamo? Certo, certo. E magari guardando i particolari, non so, della città, delle targhe delle macchine, di noi, del, non so, di una maglietta di Ricky che portava all'epoca, magari nel 2004, 2005, ti viene in mente: ah, forse eravamo a Kikon, ah, forse eravamo a Madrid, a Barcellona, qua eravamo in Giappone, perché mi ricordo quel palco lì. Fermiamoci un momento. È incredibile, visto, capito, questa cosa qua. Però c'è veramente migliaia di foto che dipingono una storia, certo, e fai anche fatica a tirare le fila. Un flash allora sul Giappone, visto la nostra ascoltatrice ve l'ha richiesto. Un momento, un flash sul Giappone, qualche secondo, te parliamo del Giappone, della tournée giapponese. Beh, qua penso che ne abbiamo veramente tante da raccontare. Ma quella, un aneddoto, una cosa particolare, una cosa divertente, dai. Il mio compleanno. Cose... Questa è una radio cattolica, vero? Sì, esattamente. Quindi devi comportarti in una certa maniera. Infatti, mi siamo comportati benissimo. Giappone. Quando è che sia stato? Io non mi ricordo. È stato bellissimo, vabbè, una cosa che ci colpiva moltissimo è che arrivavamo ai locali abbastanza presto e i sound check erano fissati, non so, alle 4, alle 5 del pomeriggio appunto lo show si iniziava, diciamo, tra le 8 e le 9, sì, quindi molto più presto, cioè, certo, la gente andava a mangiare dopo. E vedevamo appunto questi giovani, queste giovani arrivare vestite proprio con appunto all tailleur o giacca da concerto, cravatta, proprio, insomma. Sì, cioè, e fuori poi dall'ufficio al concerto. E allora dall'ufficio con la 24 ore arrivavano lì, avevano gli armadietti, cioè tu all'entrata ti davano la chiave per il tuo armadietto, tu ti cambiavi, si portavano dietro al cambio e poi si vestivano da punk rockers. Bellissimo, cioè, bellissimo. I giapponesi non sono a posto. Sì, ricambiavano. E andavano a lavorare, perché andavano a lavorare di nuovo. Cioè, per loro il momento del concerto era veramente il momento dello svago. Cioè, noi diciamo, non so, era come andare a Gardaland, cioè, ho capito, era proprio una cosa, una mentalità totalmente diversa, totalmente diversa. Ed era bellissimo perché veramente vivevano il concerto, l'esibizione, quasi esagerando con i movimenti, i balli, i salti e il canto, insomma. Ed bello, era molto bello, bello, non sapevo questa, esatto, una cosa. Tipo, cioè, tu in pausa vai a vedere il concerto, spacchi tutto, ti vesti da punk rocker, poi ti ricambi, fai la doccia e torni in ufficio, esatto, tranquillamente. Incredibile. No, ho spaccato quattro teste adesso. Quella di Francesco, raccontato Francesco, è veramente molto carina. Penso che potremmo dirvene per una puntata intera. Faremo un'altra una puntata settimana di Giappone, di queste basta cose. Io ho fatto fare due ore di viaggio al gestore del locale per farmi portare la torta di compleanno. Esatto. Ah. Questo è famoso, voi dovete sapere che Riccardo compie gli anni sempre durante situazioni o momenti, eventi incredibili, sì, tipo, in giro praticamente. In tournée con gli Offspring lui ha compiuto gli anni, se hai in tournée, non so, stai in facendo Spagna, un concerto importante in Spagna, se lui compie gli anni. E in Israele, quest'anno abbiamo suonato, c'eravamo a suonare in Palestina, in Terra Santa, appunto a Betlemme, per un concerto per la pace. Ricky ha compiuto gli anni in quella settimana lì, oppure con gli Offspring la stessa cosa, oppure in Giappone ha compiuto gli anni là, seconda data. Però si è fatto portare una torta, il proprietario del locale ha fatto 200 km con lo scooterino, è arrivato e alle 2 di notte, quando ha aperto la torta, abbiamo cantato gli auguri a Riccardo, Riccardo ha preso la torta e se gli è scaffata in faccia, perché no, il tipo ci è rimasto malissimo. Infatti, ci ha rovinato la psicologia di un giovane uomo, non è che c'era proprio gioia, 200 km per poi avere la torta, la psicologia di un giovane giapponese, esatto, la psicologia di un giovane giapponese rovinata per sempre da questo episodio. Ciao San, avete mai avuto a che fare con degli anti? Cosa pensate di queste persone? Anti. Allora, gli anti. In che senso? In anti? Che senso? Non lo so. Anti illimani. Allora, anti illimani. Se puoi mandare un altro messaggio, specificare. Vi salutano anche Giada e Valentina da Verona e da Venezia. E poi. Ciao! Ciao. Vale e Vero da Genova. Ciao, continuano ad arrivarne. Una cosa, perché questo è importantissimo. A valanghe, sì. Cioè, per noi abbiamo dei fan straordinari. Abbiamo dei fan veramente, veramente speciali. E questo va detto, perché tutta questa avventura è resa ancora più bella dal loro supporto, sì, veramente, veramente, perché sono persone appunto solari, speciali, e secondo me una band si giudica anche dalla fan base. Certo. Arianna vi chiede di suonare My Prayer o Friends. Aha, ma adesso vediamo se si continua a scrivere. Vi saluta anche Eka. anche Eka, e vabbè, insomma, ne arrivano di continuo. 346 23 20 033. Maurizio, suoniamo ragazzi, suoniamo. Ok, allora adesso ti facciamo il brano con cui abbiamo aperto tutta la tournée di Spiriti del Sole, che è una canzone alla quale teniamo in modo particolare. Si intitola San Salvador e appunto è una canzone che invitiamo tutti ad ascoltare o andare appunto nel nostro sito anche per leggere la storia che c'è dietro a questo pezzo. E è una canzone che ci salva costantemente come appunto il Salvatore. Cose di me che non mi spiego e non vedo vie che dicano chi sono io veramente, non so, mi specchio in un passato che oggi non c'è, ma c'è una faccia che si chiede chi sei, la luce schiude in tente che oggi non vuoi, se dunque cambi il passo delle cose che sei, qui non c'è acceso e spento e quel che esiste lo sai, vince solo quello, e dunque chi sei, la notte sogni facce che oggi non hai, ma che sai sono le nascoste dentro di te, la vita che sei ti chiede d'essere te, solo te stesso, la la. Che ho sentito questo intenso impulso che salva la vita e che salva l'amicizia e che salva una casa, che salva continuamente e che guida quest'anima alla sua sorgente. Dunque chi sei? La notte sogni facce che oggi non hai, ma che sai sono lì nascoste dentro di te. La vita che sei ti chiede d'essere te, solo te stesso, e chi sei tu lo sai, e non c'è voce che ti tenga, solo tu puoi alzare il velo che nasconde quello che sei, non c'è successo che ti batte, ma lo vedi. Radio Sera. Le 22, Maurizio, siamo qui con i Sun all'interno di Blu Radio Sera su Blu Radio Veneto, dicevo, con Sergio Bortolami e Maurizio Calzavara alla conduzione. Maurizio. Sì, a me è piaciuto, sono molto piaciuti i cori, questa coralità, la spiritualità che è l'insieme, è la fonte principale di tutto quello che fate, secondo me. Però Francesco, l'hai detto, non è sempre stato così, c'è stato un cammino, come penso sia normale, certo che sia, e appunto la spiritualità è parte integrante della nostra vita, è fondamentale, e appunto no, quindi non può mancare nella nostra musica, e soprattutto quando c'è stata questa svolta tra la nostra esperienza come Sun It's Ours, sì, e questo raggiungimento ha come etichetta Sun, esatto, e questa è una svolta che è maturata tra il 2007 e il 2008, e in quel frangente appunto ci trovavamo ad aver realizzato molti dei nostri sogni più adolescenziali, e avevamo fatto tanti concerti, avevamo supportato i nostri idoli, si può dire, certo, e quindi ci siamo trovati al punto, alla fine di una tournée di oltre 100 date, e avevamo fatto questo terzo disco e ci trovavamo di fronte ad un nuovo ciclo, quando appunto finisce una tournée e bisogna iniziare a lavorare su un nuovo disco, certo, e in quel frangente c'è stata una forte crisi, perché innanzitutto tra di noi è venuta a mancare quella semplicità, quella complicità che ci unisce e che ci distingue, secondo me, e, però appunto nello stare in giro concerto dopo concerto appunto succedeva anche che si esagerava, chi con l'alcol, chi con le ragazze, o semplicemente si vivevano le situazioni in modo più superficiale, e così veniva a mancare quella sostanza, e quando abbiamo finito quella tournée io veramente sentivo la necessità di riportare la musica ad un livello più alto, e era un'esigenza, perché mi chiedevo cosa potessi fare io di buono, oltre al semplice suonare, divertirmi e far divertire, e diciamo attraverso queste domande è poi nata questa nuova consapevolezza, che però non sarebbe tale se non ci fosse stato un rincontro molto importante con Gesù Cristo, e appunto questo incontro ha rivoluzionato le mete, gli obiettivi, il modo di lavorare e quindi anche la scrittura. E quindi quando mi sono trovato lì carta e penna per scrivere i brani nuovi, al posto di farli in inglese ho iniziato a scriverli in italiano. In italiano. E nello scriverli in italiano veniva fuori tutta questa necessità di una spiritualità, di una sincerità, di una ricerca, che erano veramente linfa vitale per me, ma allo stesso tempo motivo di vergogna, perché venivamo da tre dischi in inglese, e quindi scrivere un disco in italiano in quella situazione era un suicidio discografico, perché avevamo un mercato più importante all'estero che in Italia, e però veramente non riuscivo a realizzare questo intento nello scrivere in inglese, veniva solo nell'italiano. E quindi in quei mesi ho scritto una trentina di brani, però non avevo neanche il coraggio di presentarli alla band, li mettevo in un cassetto, intanto andavo avanti con la scrittura anche di brani in inglese per cercare di seguire questa via sicura, e poi però si è sgretolata, perché quando siamo entrati in studio con il nostro produttore artistico Maurizio Baggio, a lui ho confidato che avevo scritto dei brani in italiano, e lui mi ha detto ok, so che voi dovete fare un disco in inglese perché questa è la vostra strada, la vostra sicurezza, però fammi sentire qualche canzone, e così abbiamo registrato un paio di pezzi, e ci siamo resi conto tutti che avevano questa spontaneità, questa sincerità, e che comunicavano qualcosa di più, e quindi è stato anche grazie a lui che abbiamo preso il coraggio di andare avanti su questa strada. Abbiamo registrato così contemporaneamente quasi due dischi in italiano, e quindi poi questo ci ha permesso di fare questa svolta, però nulla di questo sarebbe stato possibile se non ci fosse stata la mano e la parola forte di nostro Signore, che si è fatto sentire per mesi lì a supportarci in questo cambiamento, che veramente ci aveva messo in ginocchio al tempo da un punto di vista discografico, perché quando abbiamo presentato un disco in italiano a un'etichetta che principalmente lavora su distribuzioni estere, esatto, ci hanno detto ragazzi, siete stati tanto bravi fino ad oggi, non so che cazzo vi è preso, però non si può andare avanti con un disco in italiano. E quindi ci siamo trovati per un anno e mezzo senza contratto discografico, senza agenzie di concerti, e ci siamo appunto reinventati, e però la convinzione che quello che stavamo facendo fosse giusto, fosse sincero, poi in effetti ha trovato una risposta. Ha trovato conferma nel disco che avete fatto in italiano, chiaramente. Avete resettato tutto quanto, avete ricominciato tutto da capo. Esatto. E questa è una cosa positiva, coraggiosa soprattutto, oltre a positiva, molto coraggiosa, perché non è facile. Infatti la canzone, il singolo, Non ho paura. È proprio quello che abbiamo sentito. È proprio quello, dà proprio l'immagine, l'idea giusta del vostro percorso. Infatti, e noi ci teniamo tantissimo a comunicare questo a chi ci ascolta. Non bisogna aver paura di essere se stessi, non bisogna aver paura di credere in cose positive innanzitutto. E appunto il mondo ci mette spesso in difficoltà. Ma in realtà un sacco di persone hanno dentro una spinta spirituale, una spinta positiva, e basta riuscire a tirarla fuori, e ci si accorge che siamo tanti. È vero, hai detto una cosa giusta, basta tirarla fuori, esatto. Quello è importante. Allora, se tiriamo fuori un altro pezzo da suonare, Altro pezzo? Ok, allora. Vi si chiede 2004. Eh? Vi si chiede 2004. 2004. In versione valzer. Versione valzer, oh cavolo, questa vedi. Non l'aveva neanche preparata, però chi è che la chiede? C'è una firma oppure Puffa è con okay, il suo perché babbo, vedi un'altra penso. Cosa molto bella. Dimmi. È che veramente abbiamo instaurato così tanti rapporti, ma veramente con centinaia e centinaia di persone che ormai ci si conosce. È veramente bellissimo vedere come anche tra di loro si uniscono in amicizie, anche in bellissimi rapporti. Linda, nel suo 174esimo messaggio, grande Linda, vi chiede quando è che tornate in Toscana. Non è così in Toscana, mi sa che ci vedrà con il disco nuovo, perché la tournée abbiamo un ultimo concerto e poi giustamente. Modo carino per dire, come si dice da noi, la Toscana attualmente ci vedrà col binocolo. Ma no, che cara, tesoro mio, ci allora, vogliamo bene. Capiamo un attimo, perché se dobbiamo fare 2004 allora questa metti è una canzone capotasto. Esatto, pubblicizziamo intanto l'ultimo concerto che è qui nelle vicinanze. È qua in zona dove. Padova. dovrebbe essere a Sarmeola. Se non sappiamo sbaglio. Bene dove. Comunque da qualche parte a Padova. È qui vicino. Sarmeola. Sì, qui vicino. E sarà il 16 di settembre. Comunque tutte le informazioni le troverete tra qualche giorno nel nostro sito. Sarà una grande festa perché è l'ultima data e quindi ci vogliamo divertire. Allora, un attimo che sentiamo la cordatura. Va bene. Io sono a posto. Sì, io non sono tutto dal vivo, è tutto in diretta, questa è anche la genuinità di questo programma. Quello è la bellezza di questo programma, no? Perché l'abbiamo costruito noi. È il live assoluto. Cioè, c'è stata la prova prima, però questa è una cosa quasi mai provata. Assolutamente non ci sono state prove. Suoni. Esattamente. Ok. Un attimo che qua il capotasto è mobile, ok maestro, ma un attimo però è giusto anche introdurre questo pezzo, perché 2004 2004 è un brano tratto dal nostro disco The Last Ones, un disco del 2005. Appunto, in questo brano raccontiamo queste bellissime esperienze che abbiamo fatto nel 2004, innanzitutto il viaggio interiore ed esteriore. Beh, c'è da dire anche che è una delle canzoni più veloci che abbiamo scritto, e le nostre menti malate l'hanno girata in valzer. Avevano anche dichiarato fosse un famoso sito europeo, cos'è, europunk.net se non erro, sì. Aveva votato come miglior disco l'ho letto punk anch'io, rock incredibile. Vedi quante cose vengono fuori. E adesso invece la canzone è valzerina, tipo valzerino. Ecco, vedi. That's what I felt during that Hennessy year 2004. Love made us fall in love with the present, not the future, not the past. And I can tell, well, what you gave us while we were all around. 2004, we brought ourselves into that dream we kept locked for so long. If the universe feel you stronger than pain, that's what that you gave us. If the universe feel you're able to change, love yourself again. I across the van and then the streets again to dream one more day. 2004, we let our souls try to believe we're better together. And I can't tell, well, what you gave us while we were all around. 2004, you gave us strength and brought us love, the dream we'd run for so long. If the universe failed, you're stronger than pain. That's what that you gave us. If the universe failed, you're able to change. Love yourself again. If the universe failed, you're stronger than pain. That's what that you gave us. If the universe failed, you're able to change. Love yourself again, yeah. That's what I felt during that amazing year. 2004, 2004, 2004, 2004. That's what I felt during that amazing year. Stronger than pain, that's what that you gave us. Brave the universe, failure able to change. Love yourself again. Brave the universe, failure stronger than pain. That's what that you gave us. Brave the universe, failure able to change. Love yourself again. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Tanto, tanto prima o poi i Sun dovranno venire anche da me in Umbria, Milena. Grandissimi. Stai veramente facendo amicizia con la Milena, te, intanto. Cioè, non è che gli rispondi anche. No, no, no. Per, non mi permetto. Gli risponde per via attraverso, tipo: sì, manda il mio numero di cellulare, è privato. No, in Abruzzo. Volevo sottolineare una cosa. In questo pezzo, sì, due band mi sono venuti in mente. I Levelers, non so se come siete. Scusa. I Levelers, che è un gruppo punk folk inglese, e i Pogues di Shane McGowan. I Pogues, quelli sì, mi ricordate assolutamente. In questo momento del valzerino, Shane McGowan ha fatto tanti di valzerini un po' stranulati, un po' molto adi di certi livelli, e i Pogues mi ricordate molto i Pogues. È una cosa molto bella, molto secondo positivo, me esatto. Siamo più intonati, però, diciamo, dai, di la verità. Sì, sono d'accordo con te, ma lui, sai, era intonato a suo modo. Lui comunque è Shane McGowan, lui è intonato a suo modo, anche se lo portavano sul palco. Dimmi, per tua curiosità, poi prova ad andare ad ascoltarti anche su YouTube, sul nostro canale, questa, oppure la trovi insomma un po' ovunque. Chiaramente invito a comprare il disco, certo, nostro, ripetiamo il titolo del disco, dai. Questo è The Last Ones del 2005, è un disco ancora insomma quando i eravamo dischi in inglese, il Sun It's Ours, si trova ancora il disco, sì, cioè, nel nostro sito, basta andare, esatto. Ripetiamo il vostro sito, www.thesun.it. fisicamente, se uno vuole i vostri dischi, come fa? Basta andare nel nostro sito e lì è scritto tutto, è scritto tutto. Oppure andare nel negozio di dischi, picchiare violentemente il proprietario e in qualche modo poi richiedendo il disco arriva. Comunque ti volevo dire, vai a sentirti questa canzone qua originale, vedrai la velocità, la potenza, la melodia. Come? Così insomma ti sei divertito, l'ascolti là, è una cosa. Ma a me è piaciuta la vostra versione alla Pogues, per quello, sì, a me è piaciuta. Sì, sicuramente la versione originale era proprio panchettara, era, sì, una cosa, sì, molto veloce. Molto veloce. Il stilema della musica punk, 2 minuti e 30, 3 minuti al massimo. Esatto. Esatto. Però in questo momento non erano 3 minuti, ma se erano 3 minuti, erano 3 minuti folk. Esatto. Un folk bellissimo. Grazie anche a Stilemma in questo caso, che appunto si è vietato con la fisarmonica. Lui ha suonato la fisarmonica, ma poteva essere show, no, il nostro frontman dei Pogues, esatto, in questo momento, esatto. Con i denti messi un po' meglio, chiaramente. Ha dei bei denti bianchi, con tutti i denti tra l'altro, e tutti i denti, lui ne aveva un qualcuno di meno, esattamente. Ragazzi, sono 22:14, abbiamo poco tempo, però suoniamo ancora, dai, un altro pezzo, dai, suoniamo ancora. Vuoi fare un altro pezzo? Certamente. Prendo il basso, però. Io prendi il basso, dai. Però prendi allora, il basso. Bello il basso. Fammi vedere un secondo. Cioè, vedo l'immagine, il logo della band, chiaramente. Francesco, se vogliamo fare un altro pezzo a cappella. Bello, bello. 1982, oppure fare. Perché quella l'abbiamo già fatta sentire. No? Esatto, quindi. è vero. Abbiamo tempo ancora un quarto d'ora di fare i pezzi. Un quarto d'ora di una, dai. Certamente. Allora, ti facciamo My Prayer, che è una canzone, appunto, una preghiera. Sì. E prima la suoniamo perché ce l'hanno chiesta. Certo. E questa è una canzone nata acustica. Quindi. Benissimo. Questa chitarra c'era un piano, piano ce l'abbiamo qua, per cui nel senso ci accontentiamo. Posso dire una cosa, ragazzi? Sì. Ho già ripetuto in altre band, però anche voi avete questa caratteristica. Siete come Elvis Costello. Sapete cosa fa Elvis Costello, no? I suoi fan tirano una freccetta in un disco e scegliono un pezzo che lui canta dal vivo. E succede anche a voi, vi chiedono. Non siamo proprio concerti, però i vostri fan vi chiedono un pezzo da suonare, voi lo suonate. È così oppure no? È bello intercettare quali sono anche i desideri di chi ti ascolta. Quindi, certo. Noi, appunto, a suo tempo avevamo fatto anche una sorta di sondaggio per capire quali erano i brani che più erano più amati. Esattamente. E quindi ho chiesto, non so, diteci tre brani oltre a quelli che conoscete che vi piacerebbe suonassimo, e poi chiaramente. E appunto, quindi costruiamo anche una scaletta, diciamo, che poi in realtà sono anche i brani che piacciono di più a noi. Certo, quindi. Certo. Volevo dire che. Dimmi. Anche i miei colleghi, che ho avuto un cambio, ho deciso che la faccio con la fisarmonica anche questa. Ah, okay. Bene. Vabbè. Un cambio di strumento. Sì. Tutto dal vivo, non c'è niente di preparato, assolutamente. Okay. C'è anche qualche rischio, insomma, nel farlo così. Sì, vabbè, ma qui in questo, proviamo in questo momento. Sì. Mi ha appena preoccupato tanto. Ok. That in my heart, so true, no one is stronger than me. Your straight acts make me think, oh, some silent made love me so realistic. Outside our silly realism is more like a prison where people feel safe but safe from what. Let your son be wise, let me feel realized, let me enjoy my life and understand its fights. Let me be what I am when I'm dreaming of myself, and let me be really free to say what you want us to be. I used to try to be right, but I lost every day my way. So please forgive my faults and teach me how can I do the same with my brothers. Teach me how to love them and how to forgive their hate and lies, giving them the light. Let your son be wise, let me feel realized, let me enjoy my life and understand its fights. Let me be what I am when I'm dreaming of myself, and let me be really free to say what you want us to be. Let me have sincere friends, let me live the joy of life, let me get better and never lose my faith. Let me search for my way, let me find it again. Let me be what I am when I'm dreaming of myself. Let your son be wise, let me feel realized, let me enjoy my life and understand its fights. Let me be what I am when I'm dreaming of myself, and let me be really free to say what you want us to. Let your son be wise, let me feel realized, let me enjoy my life and understand its fights. Let me be what I am when I'm dreaming of myself, and let me be really free to see what wants me to be. Blu Radio Sera. Gli ultimi 10 minuti di Blu Radio Sera insieme ai Sun. Maurizio, devo dire una cosa assolutamente. Innanzitutto mi è piaciuto un sacco l'introduzione che hai fatto, l'inserimento che hai fatto con la tua chitarra. Adesso me lo fai un'altra volta, un secondo, quel ritornello meraviglioso, un'altra volta, please. Ma non ho capito. Ma dici l'inserimento che hai fatto assieme a Francesco. Francesco suonava e poi ti sei inserito. Hai fatto una solettina. Una solettina, è bello, era okay, bellissimo. Dai, facciamo. Bellissimo. Vai, fallo un'altra volta, te. No, aspetta, sono un tranquillo. Mi cadono le cuffie e basta. Non voglio più solo. 1, 2, 3. E c'è un motivo perché ve l'ho fatto fare, perché avete lanciato, mi avete proprio lanciato nella California, e quindi sono californiano. Perché se fosse stato registrato preparato mi fregavi, così. C'era fatta la cosa e dicevo, però è registrato. Vedi, il pezzo era molto bello perché partiva. Grazie. Lentamente poi si sviluppava grazie al tuo inserimento, poi arrivava la fisarmonica e i cori californiano al 100%. Robby Steele Nash Young, il vero David, if you're colder than me, my name David Crosby, che aleggia, che va dappertutto. Grazie. Sei palimato. Sai, dico così. California. Quella roba lì proprio ti piace. Mi piace tanto. L'unica cosa che non abbiamo nella California è il colore della pelle. Non esatto, al momento. Non importa, a me lo spirito. Al di là delle mie impressioni un po' troppo esagerate, però è lo spirito quel conta. Voi avete un grande spirito di gruppo, è quello che serve. Quello che è fondamentale. Mi dicono dalla radio di andare in California. Andremo in California. La terra promessa con i musicisti, probabilmente. Ok, benissimo. È stato bello, è stato molto, per me molto accattivante. Mi ha preso dentro, questo è importante secondo me. Grazie. È fondamentale. Grazie mille. Abbiamo ancora qualche minuto, non abbiamo mica finito. Guarda, noi possiamo suonare ancora. No, una cosa, avete parlato di concerti, adesso questo è l'ultimo che farete. C'è un disco nuovo. C'è nel senso l'ultimo, cioè, di questa. Per questo questa periodo, stagione, per scusami, questa stagione, che farete per questa stagione, sì. Chiaramente. Avete un disco nuovo già pronto? Così? Non si può dire, si può dire. Diciamo che appunto l'attività è stata molto intensa in questo anno e mezzo. E quindi appunto adesso siamo costretti a smettere di fare concerti. In realtà ne potremmo fare ancora. Però bisogna fare il disco nuovo, bisogna entrare in studio e è anche arrivato il momento di dare un seguito a questo disco. Esatto, le canzoni sono già state scritte, sono già pronte. Sono in via. Velocissimamente, come si fa a creare un pezzo vostro assieme? Come nasce? Innanzitutto ci deve essere un motivo per scrivere una canzone e io ci tengo sempre a dirlo, perché non è che uno deve scrivere canzoni solo perché lo fa di mestiere. Certo. Spirito del Sole è l'esempio. Esatto. Ogni brano, 12 brani, 12 storie vere, perfette cose che esistono e hanno fatto parte. Infatti è importante dire questo, perché quindi le canzoni arrivano e nascono da un'esperienza, nascono da una sensazione, di qualcosa di forte comunque, e quello è il momento in cui lo devi scrivere. E quindi parte da un'idea, poi un'armonia che leghi a un'idea. E allora si scrivono le prime parole, le prime idee, la prima composizione, dopodiché si porta in sala e poi in studio. E poi si fa. Ok. Dimmi, mi guardi. Tempo ancora per un pezzo dal vivo, cosa dici? Mi avevi preparato anche la traccia 7, Maurizio. Allora facciamo così, sentiamo un momento la traccia 7 e poi chiudiamo con un pezzo live. È il terzo singolo estratto da Spiriti del Sole, sentito Hasta la Muerte. Ok, ecco. Pompa pompa pompa. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Gli ultimi minuti su Blu Radio Veneto all'interno di Blu Radio Sera con i San Maurizio. Sì, Francesco voleva dire una cosa molto importante per concludere la puntata. Non è che sia poi una, cioè è un'esperienza, è una bella esperienza, una bella esperienza. Esattamente. Questo disco ci ha dato l'opportunità di fare anche un viaggio in Terra Santa. E appunto abbiamo fatto questo pellegrinaggio di una settimana, eravamo stati chiamati per diciamo portare la nostra testimonianza durante un concerto per la pace e contro il muro di divisione che affligge appunto la Palestina, questo muro di 700 chilometri che è uno scempio di cui non si parla. Ma il nostro governante non l'ha visto quella volta. Esatto. No, io non sono mica accorto di niente, cioè 780 chilometri di muro. La maggior parte delle persone non si accorge di niente. E niente, appunto abbiamo ricevuto questo invito da un prete Abuna Mario Cornioli, che vive a Gerusalemme, vive a Betlemme, e ci ha invitato appunto a portare la nostra musica lì. Ed eravamo convinti noi di portare qualcosa a loro, invece hanno dato loro tantissimo a noi, ed è stata una settimana che veramente ha lasciato il segno e sicuramente ha dato ancora di più una direzione a questa band e quindi anche al disco prossimo, quello che verrà scritto prossimamente. E niente, questo è quanto. Un'altra cosa, visto la genuinità di questa trasmissione, di cui abbiamo parlato questa sera, ci tengo anche a ringraziare il nostro manager Marco Morini, perché veramente per primo, quando nessuno credeva in questo lavoro, in questo disco, lui credeva sia negli intenti sia nei temi, e quindi ce lo dobbiamo ricordare e quindi lo salutiamo. Ciao Marco. Che tra parentesi ora è in California. Che è in California, tra parentesi. Tra l'altro molto bello la California. Ok. Bene. Volevo solo ricordare il blog di Francesco, faccio pubblicità, www.francescolorenzi.it e anche la nostra pagina su Facebook. Anche la nostra pagina su Facebook. facebook.com/vessanofficial. Trovate tutto comunque dal sul sito, su vessan.it, da lì vi dirà, diciamo, internet come un fuoco che apre nuove... Vessan come il sole. Il sole. Vessan. Ok. Infine c'ero arrivato, pensavo che fossero arrivati i nostri amici. Terminiamo con cosa? Con quale pezzo? Beh, con il brano che chiude anche il nostro disco, Spiriti del Sole. È un brano che ci piace molto perché è positivo. È come una passeggiata su una spiaggia in una natura che rinasce, e intanto rinasciamo. Maurizio, anche noi. Visto che sono le 10:30, salutiamo adesso e poi sentiamo la canzone. Certo. Okay. Grazie, Sam. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie a tutti coloro che hanno scritto. We love you. Ciao. Grazie a tutti, ciao. Ciao, ciao. Vedo una nuvola e maggio, oggi contano solo i miei sogni, un paio di stanze che son chiuse a chiave, oggi faccio da me. Ne ho visti di amici che si sono seduti, bloccati su strade buie ed uguali, dal basso all'alto chiudevano stanze, spegnendo l'intima voce. O cielo, dimmi, dimmi che via, dammi una stella che mi lasci una tua scia, e sento d'essere meglio di quel che ho fatto, quello che ho fatto, e dammi una mia via, quella che vendono i saldi non è la mia, nel caso dammi uno schiaffo, ma tienimi sveglio, tienimi sveglio. Il cielo è coperto e non vedo una stella, ma so che son sopra e non mi conviene piangere come chi si scoraggia, il bene si aspetta di più. Le vie sono tante, spesso affollate, ma le migliori sono un po' strette. Ci si passa in pochi o anche da soli. Oggi mi fido e faccio da me cielo. Dimmi, dimmi che via, dammi una stella che mi lasci una tua scia. E sento d'essere meglio di quel che ho fatto, quello che ho fatto. E dammi una mia via, quella che vendono ai saldi non è la mia. E nel caso dammi uno schiaffo, ma tienimi sveglio, tienimi sveglio. Lai la la la, lai la la la, lai la la, lai lai lai, lai la la la, lai la la la, lai la la la.